che era appunto Aurelio Aureli, detto Agnello, e Re I Monti, con questa ubriachi in trattoria. Non conoscendoli, è inutile dirvi che mi è bastato il titolo per convincermi a prendere questo 7 pollici, e effettivamente ne valeva abbastanza la pena. Non so, non ci sono indicazioni su questo 45 giri, non so di che anno di preciso sia, ma molto probabilmente roba di inizio degli anni 60, cioè una registrazione praticamente di una fis di avanspettacolo o classica commedia irriverente toscana, chiamiamola. È veramente notevole. Poi mi piace perché proprio si sente l'accento come il mio. E spero vi abbia fatto divertire quanto ha fatto divertire me. E questo era un excursus che non c'entrava assolutamente niente con il resto della puntata, ma appunto che sarà prevalentemente dance, con il resto dei dischi che non sono riuscito a mettere nella puntata precedente. Però questo, appunto, essendomi ridimenticato le Psyché Rock, che solitamente è la sigla di Basement Records, secondo me valeva assolutamente la pena di ascoltarla questa registrazione di questa commedia, di questa piece d'avant spettacolo di Aureli, detto Agnello, e di Re I Monti. Notevole, devo dire, notevole, mi ha fatto divertire molto, ero qui che me la ridevo alla stragrande. Però, come sempre, prima di fiondarci, come al solito, dentro la puntata e dentro i vinili di recupero, è bene sempre ricordare tutti gli indirizzi per mettervi qui in contatto con noi di Radio Wombat. Il sito è sempre lo stesso, radiowombat.net, dove potete trovare lo streaming in diretta della radio, tutti i vecchi podcast e tutte le ultime novità che riguardano la radio. La nostra frequenza in onde medie sulle vostre autoradio e radioline, se siete nei dintorni di Firenze, è 1359 1359, ricordo, in onde medie, rigorosamente in onde medie. La nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono sempre su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Se siete particolarmente social, ci potrete trovare appunto anche su Facebook e su Twitter. Però andiamo adesso ad ascoltarci appunto il primo 12 pollici di stasera. Vedo qua, visto i precedenti dell'ultima puntata di Basement, fortunatamente questa volta sono proprio andato a riguardarmi tutti i centrini per non sbagliare la velocità, nonostante siano tutti 12 pollici. Infatti, molto spesso in ambito dance sono a 45 giri invece dei classici 33 giri dei 12 pollici, ed è il caso anche di questo primo vinile di recupero che ho in mano. Come vi raccontavo nella puntata precedente, tra questi nuovi vinili che ho recuperato ci sono c'erano anche diversi vinili appunto con i remix di un'autentica leggenda americana della dance music, come Shep Pettibone, DJ e produttore della fine degli anni 70, che poi ha proseguito la sua carriera anche per tutti gli anni 80. I suoi leggendari mega mix su Kiss FM di New York hanno influenzato non sappiamo quanti DJ e producer di oltre Atlantico, un vero nome tutelare della dance americana, e appunto in questo caso è il suo strong mix di un pezzo dei Too Brave dal titolo di After Midnight. Questo è lo strong mix del 1989, edito sull'etichetta FFRR, sussidiaria, come ricordavo anche la puntata precedente, della mitica London Recordings, e non possiamo fare altro che metterlo sul piatto, lasciare i 45 giri e andarci ad ascoltare appunto questo strong mix di Shep Pettibone, di questa After Midnight dei Too Brave. E l'inizio sarà molto molto soft, perché appunto, essendo un DJ, un producer e un DJ della old school, Shep Pettibone, questi remix, questi primi due remix che vi farò sentire, hanno poco di dance nel senso comune che diamo oggi. Sono molto più vicini ad un'estetica pop, si direbbe ai giorni nostri. Non c'è quel beat possente che caratterizza oggigiorno la maggior parte delle produzioni dance. E appunto andiamoci ad ascoltare adesso questo primo remix, strong mix di Shep Pettibone, Too Brave, After Midnight, sempre qui a Basement Records, i vinili di recupero, non ve lo dimenticate mai, e non vi dimenticate mai che siamo sempre qui su Radio Wombat, e dove se no. Walking down the street, I don't feel safe enough. Whoa, whoa, whoa. Questo era lo Strong Shep Pettibone remix di After Midnight dei Too Brave 1989. Ora, come avevo precedentemente detto prima di lasciarvi al brano, sì, il beat è molto, cioè, il beat si sente, però è molto diverso, è molto più a bassa battuta secondo me rispetto a quello che intendiamo oggi come dance classica, come dance improntata al dance floor, alla musica da ballo, ecco. Questo ci fa proprio fare un salto di più di 30 anni appunto alla prima concezione appunto di questa tipologia di dance e di remix. Ricordo, siamo nel 1989, si erano già sviluppati beat molto più duri a Chicago, ad esempio. Questo è una versione newyorkese che infatti poi sfocerà nella garage, cantata molto più lenta, molto più improntata verso l'ascolto, direi, che non prettamente alla pista da ballo, ecco. E appunto, continuando sulla scia dei dischi dei vinili recuperati e dei remix di Shep Pettibone, il prossimo vinile si tratta sempre di un suo remix. In questo caso la dub mix di un brano di un anno precedente rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato. Infatti questo è il 1988, ripeto, annata magica per la musica dance, la definitiva esplosione dell'acid house in Inghilterra, che provocò questo cortocircuito in ambito della popular music, fatemelo mettere tra molte virgolette. E appunto questo è un brano dei Bros, gruppo che non conosco assolutamente. Il brano in questione è Drop the Boy, e questo appunto è lo Shep Pettibone dub mix sulla B-side di questo disco, anche questo 12 pollici rigorosamente a 45 giri, però lo so prima adesso e quindi lasciamo tutto com'è. Questi sono i Bros con Drop the Boy, con lo Shep Pettibone dub mix, sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat, e dove se no. We'll be right back. E questo appunto era Drop the Boy dei Bros, remixata nella dub version da Shep Pettibone. E proseguendo appunto con gli ultimi ritrovamenti vinilici, finita l'excursus su Shep Pettibone, però qua abbiamo un altro pioniere, se lo possiamo definire così, dell'altra parte dell'Atlantico, in questo caso dell'Inghilterra, ovvero Baby Ford. Baby Ford, che conoscevo perché appunto è stato uno dei primi DJ a venire fuori in Inghilterra post esplosione Acid House. C'è un suo pezzo famosissimo che lì era già in versione house e non Acid House. Questa è già una cosa precedente, infatti è un disco, se non mi ricordo male, del 1989, quel pezzo che mi ricorda, che ho in mente ma che non mi ricordo il titolo, è sicuramente post, siamo sicuramente negli anni 90. Qui facciamo un passo indietro nel 1989, questa tra l'altro è una cover, non è un pezzo originale, infatti è Children of the Revolution di Mark Bolan, del periodo di Mark Bolan, di quando lasciò, subito dopo che lasciò i T-Rex e fece questo discreto successo con Children of the Revolution. E questo appunto è la reinterpretazione che ha dato Baby Ford del classico, appunto, del glam rock di Mark Bolan, di questa Children of the Revolution. E siamo sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, ovviamente su Radio Wombat. definirei proprio un signor remix. Ecco, questo è quello che solitamente intendo io come musica dance orientata verso il dance floor. Il beat si sente molto più presente, poi devo dire veramente un remix che mi piace veramente molto, cioè ha usato sì il ritornello della canzone originale di Mark Bolan, ma poi il resto del pezzo è completamente trasfigurato in ottica dance, in modo da, ecco, da non poter star fermo, ecco. Questo mi è venuto in mente, infatti ero qua che giravo da solo per la regia a ballettare proprio come un cretino, ma è inevitabile quando un qualcosa in ambito dance è fatto come deve essere fatto, secondo me è questo il risultato che bisogna raggiungere, ecco. E questa appunto era Children of the Revolution di Baby Ford, pioniere inglese del post acid house. Questo è 1989, edito su Rhythm King Records. Mi ero scordato di citare l'etichetta. Però facciamo un altro salto al di là dell'oceano con il prossimo vinile. Il prossimo vinile è appunto un pezzo di Milli Vanilli, che mi chiederete voi, con un nome così strano, cioè la prima cosa che mi ha colpito è il nome, però in realtà Milli Vanilli, devo essere proprio sincero con voi, sapete che quando faccio la trasmissione vi dico quello che mi passa in mente e vi racconto più o meno la verità, ecco. In realtà Milli Vanilli io l'ho conosciuto attraverso una delle mie leggende chicagoane, ovvero Green Velvet, che forse ormai una decina d'anni fa gli dedicò addirittura un brano nello stile di Green Velvet, quindi molto più pesante di quello che stiamo andando ad ascoltare adesso, proprio inciso con il suo nome, Milli Vanilli. È uno dei pezzi che adoro di Green Velvet, e quando poi sono andato a scartabellare a mani tese per recuperare un po' di vinili per proporveli a Basement Records, quando ho trovato che era arrivato appunto il vinile di Milli Vanilli, io l'ho preso a scatola chiusa proprio, poi me lo sono andato a riascoltare a casa. Qui, se non ricordo male, perché la memoria mi fa sempre difetto, la mia famosa memoria da pesce rosso, dovrebbe essere più soft rispetto a Baby Ford che abbiamo appena ascoltato, ma è anche la differenza appunto di ottica, di percezione in quegli anni rispetto alla musica dance tra i due lati dell'oceano appunto. E questo disco, questo 12 pollici di Milli Vanilli, anche questo rigorosamente a 45 giri, oggi mi sono fortemente informato riguardando tutti i centrini per evitare tutto quello che è successo nella puntata precedente, anche se devo dire che aveva un suo perché devo riconoscere che un trick, diciamo, di diversi DJ è suonare i dischi a velocità diverse, ma non attraverso il pitch, proprio 45-33 giri, per avere appunto l'effetto che più si vuole avere, appunto, se di velocizzazione oppure di rallentamento, appunto. Però ecco, questo è il disco di Milli Vanilli e non mi ricordo il titolo, adesso me lo ricordo perché ho ripreso la copertina in mano, ed è Girl, You Know It's True, che tra l'altro poi riascoltandolo mi è rivenuto in mente che pezzo è questo, perché è anche abbastanza famoso per la musica dance di quegli anni. Ditemi voi, poi voi mandatemi un messaggio su Radio Wombat se vi è ritornato anche a voi in mente questo pezzo. Tra l'altro, nel retro della copertina c'è i Milli Vanilli con questa mise molto da Terence Trent D'Arby, mi hanno ricordato, e tra l'altro entrambi con un colbacco con la stella rossa sopra, che mi ha fatto proprio, come fai a non prenderlo? Però questo è un altro discorso. E in questo caso non ci andremo ad ascoltare la versione originale, perché questo tra l'altro è un 12 pollici di remix di questa Girl You Know It's True, che è stata un po' la hit della carriera dei Milli Vanilli. In questo caso è la New York Subway Mix di questa Girl You Know It's True. Il disco uscito nel 1988 su etichetta Chrysalis, recuperato per voi dal qui presente appena poco, per questa puntata ovviamente di Basement Record, sempre qui su Radio Wombat. E dove se no? Girl, you know it's, yes, you know it's true. Ooh. Yes, you know it's true. non mi dite che non vi è tornata in mente. Io quando l'ho riascoltata, quando l'ho ascoltata, mi si sono uniti tutti i puntini, tipo il gioco della settimana enigmistica nel cervello. Ho detto, cazzo, guarda che pezzo è questo! E quindi, pompissima aver recuperato un pezzo del genere, soprattutto appunto se il 12 pollici... sei il 12 pollici appunto dei remix di questo grande successo di fine anni 80. Tra l'altro, notando come sempre contro luce il vinile, vedo che anche il precedente proprietario l'ha usato abbondantemente, direi anche giustamente. Gran pezzone è veramente questa New York Subway Mix, tanta roba. Cioè, a un certo punto è partito anche un sample di Soul Macossa, di Manu Dibango, tutto completamente, diciamo mascherato, tra virgolette. Anche questo, proprio come dicevo nella puntata precedente, proprio un uso e costume di certa dance con una derivazione dall'hip hop, in cui appunto i sample erano la base della produzione di quegli anni in ambito hip hop, e quindi qua ci conferma appunto questa influenza sul finire degli anni 80. Passiamo al prossimo disco. E questo è letteralmente un disco, è un album a 33 giri, infatti cambio immediatamente la velocità sul giradischi, e questo mi è proprio arrivato negli ultimi giorni, perché non l'ho recuperato, ma Emilia e la Rosalba di Manitese mi hanno portato e mi hanno proposto e me l'hanno portato l'altro giorno. Quando ho visto gli ultimi arrivi, ho detto questo sicuramente lo metto alla radio. Infatti stiamo parlando di un gruppo di house vocale, si sarebbe detto di garage, poi qualche anno più tardi. Finalmente riusciamo ad uscire dal biennio 88-89, di cui erano composti la maggior parte appunto degli ultimi recuperi, la puntata precedente e questa. Qui facciamo qualche passo più avanti, andiamo all'inizio degli anni 90, è il 1992. E il disco, il vinile sul piatto in questo caso, è dei mitologici, li definirei Ten City, proprio un gruppo che poi definirà, uno dei gruppi che definiranno la garage newyorkese negli anni a seguire. Questo non è il loro primo lavoro, non è il loro primo album, è il terzo. I due precedenti avevano già avuto un grande successo all'interno delle discoteche, specialmente, soprattutto newyorkesi, appunto più orientati a uno stile dance vocale. E la voce principale di questo gruppo, dei Ten City, è il mitico Byron Stingeli. Non so se la pronuncia sia esatta, però ancora uno dei fari che continua a produrre garage newyorkese, anche a cantare. E anche, tra l'altro, non è un produttore, ma è uno che è un compositore, uno che proprio se le scrive le canzoni. In questo caso nei Ten City era la voce solista, la voce principale. Ten City, un gruppone immenso che ho già trattato, tra l'altro, in una delle puntate precedenti di Tonight Alive, Infatti il produttore di questo disco e anche, se non ricordo male, dei dischi precedenti è niente po' di meno che Marshall Jefferson, e vi invito appunto a andare a recuperare una delle puntate che più mi è piaciuto registrare di Tonight Alive, se ne volete sapere di più e non vi basta quello che vi ho detto stasera. Un'altra delle cose da notare prima di far partire questa doppietta, vi avverto, li sentiremo uno di seguito all'altro, è che il primo brano in scaletta, appunto, dei Ten City, il primo brano tra l'altro del lato A di questo album a 33 giri, ovvero My Piece of Heaven, non Peace come pezzo, ma Peace proprio come pace, perché infatti poi non venitemi a infamare che nel podcast della radio ho scritto Peace come pace e non come pezzo, perché è proprio Peace come pace, peace. E vedo che tra gli autori di questo brano, oltre a Byron Stingley, c'è anche il mitologico e leggendario David Morales, un altro dei grandissimi DJ e produttori della prima house, della prima garage newyorkese, non proprio tra i primissimi, diciamo della prima seconda ondata, ecco, fatemi salvare così in corner, e quindi questo non può essere altro che il primo brano che ci ascolteremo, appunto My Piece of Heaven, composta appunto da Byron Stingley e da David Morales e prodotta da Marshall Jefferson. Che volete di più? Cioè, non so, in ambito dance newyorkese si può chiedere poco di più, qui siamo a livelli altissimi. Di un certo ramo di dance, è sempre bene mettere i puntini sulle i. E dopo, subito a ruota, ci ascolteremo il secondo brano, anche perché appunto in quel 1992 entrambi questi due primi brani del lato A usciranno anche come in singoli che anticipano appunto quest'album, che si intitola, ancora non ve l'avevo detto, ma lo sapete, la testa è quella che è, questo terzo album dei Ten City si chiama No House Big Enough, tra l'altro appunto rimando alla house, anche se qui probabilmente saremo in ambito garage, e vedo che tra l'altro è edito da una major, anche se da una sussidiaria, infatti è edito dalla UEA su sussidiaria. Scusate, non c'è luce a quest'ora dentro la regia del Wombat, e la sussidiaria è East West America, con la America con la K, come sono alternativi. Molto bene, dopo queste chiacchiere, dopo questa introduzione, non possiamo fare altro che andarci a sentire a 33 giri questi primi due brani di questo terzo album dei Ten City, autentiche leggende newyorkesi in ambito garage, appunto. E non vi dimenticate mai che siete sempre qua tra i vinili di recupero di Basement Records, e questa naturalmente non può essere altro che Radio Wombat, e dove se no. Ed ora a ruota, Only Time Will Tell, sempre dei Ten City, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Questi due brani ve li posso consigliare appunto se qualcuno vi dovesse chiedere cosa è la garage, appunto, è questa versione di house fondamentalmente cantata che ha avuto il suo epicentro appunto a New York, e questi erano uno dei capisaldi della garage newyorkese, i Ten City, prodotti da Marshall Jefferson, niente proprio di meno che, con la voce appunto con la voce inconfondibile di Byron Stingley. E adesso rimaniamo in questo 1992, visto che ce l'abbiamo fatta a uscire da quella accoppiata di anni finali degli anni 80, e questa è un'altra grandissima voce della house americana, in questo caso al femminile. Stiamo parlando di Ultranate, tuttora attiva anche ora nel 2022, continua a produrre sempre, ovviamente nella fase discendente della carriera, ma ci mancherebbe altro, però la sua voce rimane sempre inconfondibile e ha scritto delle pagine storiche della dance, sia come con gli album in proprio, sia in una notevole quantità di remix che altri artisti hanno fatto per i suoi lavori. E è proprio il caso di questo vinile di recupero di stasera. Infatti questo vinile è il vinile dei remix di Rejoicing, che è un singolo di Ultranate, sempre 1992. E tra l'altro, nota a margine, ma direi notevolmente importante, questo è un disco edito su etichetta Eternal, però è una produzione dei leggendari Basement Boys. Basement Boys sono stati un gruppo di producer molto importanti in ambito dance americano, però quello che c'è, essendo un brano di remix, il loro lavoro non lo sentiremo nei prossimi due brani che vi farò sentire, anche in questo caso da questo disco. Uscirà fuori una doppietta che secondo me ne varrà sicuramente la pena. Nel primo caso, sul lato A tra l'altro, il brano è proprio il brano che dà il nome, il titolo all'album dei remix, ovvero Rejoicing, uno dei singoli storici di Ultranate. In questo caso ci andremo ad ascoltare la Delightful Stomp Mix, che così a naso secondo me è un remix dei Delight, storico gruppo che provenivano dall'hip hop americano, veramente veramente notevoli. E il secondo non ve lo voglio anticipare, anche perché vi racconterò altre due minchiate, così giusto per darmi il tempo di girare il vinile, anche perché appunto l'altro remix è sull'altro lato e quindi mi dovrete accondiscendere nei tempi tecnici del Wombat. Siamo sempre qua a Basement Records, vinili di recupero, stasera tutta densa, a parte la sigla estemporanea. Questa è Ultranate con Rejoicing, Delightful Stomp Mix, 1992, Radio Wombat, Basement Records. Restores my faith in his eyes. He is watching you. Be E questa appunto era la Delightful Stomp Mix di Rejoicing di Ultranathé. E come promesso, adesso ci andremo ad ascoltare un altro remix dal lato B di questo album. E credo che cambieremo completamente tipologia di remix. Innanzitutto è un altro pezzo, non è più Rejoicing, ma è Deeper Love, sempre di Ultranathé. Ma i remixatori in questo caso sono niente po' di meno che i Left Field, leggendario gruppo inglese, che ora non voglio dire un termine che so che è profondamente odiato, diciamo che possiamo dire che i Left Field li definirei un po' anticipatori di quello che poi si formerà definitivamente come il suono della Warp, ecco. Lo vedrei abbastanza bene messo in quell'ambito lì, anche se ovviamente come tutte le definizioni va preso abbastanza con le molle. Un remix, se non ricordo male, più pestone il prossimo, questa Left Field Vocal Mix di Deeper Love. E questa è sempre Ultranathé, appunto, dal suo album di remix di Rejoicing. Questo è il lato B, Deeper Love, The Left Field Vocal Remix. Sempre qui, a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. Radio Wombat. We'll be right back. E questo era il vocal mix dei Left Field, il remix dei Left Field di questo Deeper Love di Ultranathè 1992. E ora siamo arrivati all'ultimo disco di stasera. Pensavo di fare una trasmissione, mi stavo preoccupando all'inizio che mi erano rimasti solo 6-7 dischi di questa tipologia dalla puntata precedente. Non sapevo se riuscivo a farci entrare una serata, una nuova puntata, ma a quanto pare abbiamo già ampiamente sorpassato l'ora e mezzo, quindi la mia logorrea, come al solito, mi dà sempre una mano nonostante la penuria di dischi. La penuria relativa è in questo caso, visto che ero partito con i vinili dance nella puntata precedente, era giusto chiudere con quelli che erano rimasti. E ultimo ma non ultimo, qui stiamo andando già in confronto a tutti quelli che abbiamo messo fino adesso, in un futuro anteriore, perché stiamo parlando del 1997 e quindi 5 anni dagli ultimi due dischi e 10 anni da tutto il resto dei dischi che ho messo fino adesso. E questo è un vinile un po' strano. Un vinile un po' strano perché quando mi è capitato di recuperarlo, appunto andando lì dove vado di solito a recuperare i vinili per Basement Records, vedendo tutti questi dischi dance, trovo questo disco con questa copertina assolutamente anonima che mi ricordava tanto uno di quegli accrocchi che sono stati pubblicati per mettere un po' di pezzi insieme, però poi mi è caduto l'occhio su, appunto, Include Two Different Armand Van Elden Remix. Armand Van Elden è uno dei... mi direte, quante ce n'hai di miti? Troppi, sicuramente troppi. E Armand Van Elden con la sua tamarraggine sicuramente è uno dei miei preferiti della seconda ondata, appunto, di produttori americani. E altra cosa che me l'ha fatto scegliere è, in questo caso, il remix che ci sentiremo di questi Sash. Tra l'altro, il brano originale è dei Sash e il singolo si chiama Stay, però Armand Van Elden nel lato A ci propone due remix, perché sono fatti da due produttori diversi, e ci ascolteremo il secondo remix. Perché il secondo remix è l'Armand Van Elden Cano Remix. Ora mi starete dicendo: cos'è che te l'ha fatto scegliere? È perché Cano, dovrete sapere, che è un gruppo italiano della cosiddetta Italo Disco dei primissimi anni 80, nella prima metà degli anni 80 quantomeno, che io ricollego molto i Cano a un'altra leggenda dance qui fiorentina di queste zone, appunto, che è il mitico Alexander Robotnik, Maurizio Dami, che nell'improbabile caso che ascolterà mai questa puntata / podcast, lo saluto. Ci mancherebbe altro, ancora continua a fare serate e a produrre dell'ottima musica, perché appunto questo è un remix di Armand Van Elden prodotto dai Cano, cosa che ero assolutamente all'oscuro. Allora qui pezzo finale è quello proprio credo sia quello con la cassa più dritta di tutta la serata, però appunto andiamoci ad ascoltare questo Sash con la loro Stay, il remix di Armand Van Helden prodotto dai Kano. Ovviamente siamo sempre qui con i vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat, e dove se no. We'll be right back. E questo era l'ultimo brano di stasera. Questo appunto era il l'Armand Van Helden Cano Remix di Stay dei Sash 1997. Si sente già la cassa molto più dritta, secondo me, rispetto a tutti i brani precedenti, ma appunto la tamarragine di Armand la conosce chi la deve conoscere, appunto sappiamo di chi stiamo parlando. E a questo punto giunti, come dico sempre, siamo arrivati alla fine della puntata. Vi rinnovo l'appuntamento domani con il fittissimo palinsesto domenicale di Radio Wombat. Non vi rileggerò il palinsesto perché tanto è di uso e costume di ogni fine puntata, quindi spero che se siete degli ascoltatori abituali ormai l'avrete imparato, visto che da un po' di tempo è sempre lo stesso. E se siete dei nuovi, vi invito appunto a andare a controllarlo e a verificare su appunto radiowombat.net, e soprattutto oltre a verificare ad ascoltarlo, perché il palinsesto di Radio Wombat domenicale è veramente ricco, ricchissimo di puntate, di dirette. Basta solo ricordare appunto che inizierà domani alle 10 la mattina e finirà appunto dopo 12 ore, verso le 10 la sera, si inizia con Container e finisce con il furto di trasmissione altrui verso le 10 e mezzo, quindi più di 12 ore di palinsesto domani e con svariate dirette, nonché le consuete repliche per rimpinguare il palinsesto di Radio Wombat. E non posso fare altro che augurarvi un buon proseguo di weekend, un buon sabato sera, una buona domenica, e rinnovare l'appuntamento qui con il vostro Pena Poco, con Basement Records o con Tonight Alive, speriamo settimana prossima. Vedremo un po', ma al massimo, a esagerare, dovesse avere dei problemi, tra 2 settimane, chi può dirlo. Spero sempre di riuscire a pubblicare nuove puntate una volta, come di consueto, una volta a settimana, ma nel periodo in cui sono adesso è un po' più difficoltoso, quindi siate fiduciosi, io ce la metto sempre tutta. Un buon weekend, buon sabato sera dal vostro Pena Poco, qui dai vinili di recupero di Basement Records, e ricordatevi, siete sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat, restateci! Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore.